Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Comunque dovessi scegliere il mio futuro da conduttore. I don't know much about my history now. Don't know much about biology. Don't know much about the science movement. Don't know much about the French I. Mentre nelle altre città già si lavorava, a Roma si facevano le riunioni delle sottocorrenti dei 5 Stelle. Quindi si riunivano le stelle, poi i pianeti, poi i pianetini, fino a che hanno distillato, diciamo, questa giornata. Allora. Qualche mese fa dicevano: togliamo i soldi per gli aerei, gli F-35, non li compriamo. Bene, non ci sono più. Premesso che dovremmo pure dire che se l'ISIS è a 200 km dall'Italia, eventualmente come pensiamo di contrastarli? Con le pistole ad acqua, diciamo, con le frecce, come... fare un dibattito con Di Maio. Quando avrà voglia, io sono pronto in qualunque sede, in qualunque luogo, in diretta, senza rete, nel web, con una trasmissione screening, come fanno loro. Mentre nelle altre città già si lavorava, a Roma si facevano le riunioni delle sottocorrenti dei 5 Stelle. Quindi si riunivano le stelle, poi i pianeti, poi i pianetini, fino a che hanno distillato, diciamo, questa giornata. Allora. In streaming, De Luca, streaming, com'è che le fanno loro? In screaming. Ah, vabbè ragazzi, De Luca non è stato per nulla intimorito dal Bambolina alla Raggi Bambolina. Che a un certo punto dice pure che è un complimento. Bambolina è più un complimento che un'offesa, tra l'altro. Bambolina, diciamo, è anche un termine che per noi è familiare, noi che viviamo qui, lavoriamo a Napoli e abbiamo familiarità con le porcellane di Capodimonte, diciamo, quindi sono termini che sono più ricchi di gentilezza e di grazia che di altro. La domanda, tra l'altro, a schiena dritta del giornalista, la domanda incalzante: bambolina è più un complimento, peraltro, presidente. Lira TV, straordinaria TV, che ci dà veramente del materiale spettacolare. Oh signori, sono le 6:33 minuti, ieri io ne ho parlato a lungo qui, ma oggi torna in maniera furibonda la vicenda del parrucchiere Olivier, il parrucchiere di François Hollande, che conquista oggi una pagina del Corriere della Sera, un commento di Luca Telese sul Libero Quotidiano. Il parrucchiere che guadagna 10.000 euro al mese, signori. 593.000 euro l'anno, lordi. Il parrucchiere di Hollande. Sì, vedete, non abbiamo solo noi i barbieri alla camera che costano parecchio, ragazzi. Olivier, mi dicono, deve essere a disposizione 24 ore su 24. Sì, Hollande ha 4 peli in testa, però c'è la barba da fare, ma insomma, 593.000 euro. Grande Olivier, tutti vorremmo essere Olivier. Signori, sono le 6:34 minuti, questo è 24 mattino in diretta fino al 29 luglio. Voi ci siete? Mandateci messaggi al 349-238-6666, latitate un po' ultimamente, io non vi invito a scriverci, ora lo sto facendo, così vi saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando a quest'ora. Siete tanti come sempre, visto che non siete in vacanza. Allora, chi non vorrebbe essere il parrucchiere di Olon? Per esempio, il direttore di oggi, Umberto Brindani. Potresti riciclarti, caro direttore. Hai sbagliato tutto. Il parrucchiere di Olon dovevamo fare. Buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Dovevamo fare i parrucchieri. Sì. Però 24 ore su 24... È un bel impegno, eh. Perché Olan si vuole fare la barba alle 3 di notte a volte. Forse più volte al giorno, insomma, i suoi pochi capelli devono avere una cura adeguata. È una bella, notizia. Ieri era un po' nascosta. Sì, ma su Repubblica, però oggi ha giustamente guadagnato il suo spazio, il suo spazio, ciò che merita, una pagina del Corrierone. E via così, commenti editoriali e alle. Allora, insieme a Umberto Brindani abbiamo il ritorno del quasi omonimo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, avvocato. Buongiorno, ma la I che fa la differenza, la però, I che salverà l'Italia, non ce l'ha fatta per Roma di pochi voti, ma vabbè. Andremo avanti, non ce l'ha fatta essere candidato sindaco, ma ci dirà tutto, i giudizi sul sindaco di Roma, Virginia Raggi, come si sta comportando in questi primi giorni. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento intanto, eh? Adesso dobbiamo aprire il Parlamento. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, in realtà dobbiamo aggiornare, insomma, sulla vicenda. Io devo dire una cosa, direttore, visto che è un direttore, faccio questo appello. È successa questa tragedia in Puglia, ora si discute, ci sono già i tre indagati, c'è il capostazione che dice sì, è vero, non dormo più la notte, ed è comprensibile, non mangio, non è disperato, insomma, dopo aver dato quel via libera, però dice non è possibile che la sicurezza di due treni sia affidata solo a una paletta alzata da parte del capostazione, che può anche sbagliarsi, insomma, l'errore umano. E c'è, quindi fai le considerazioni del caso, dici che cosa ne pensi. Però da direttore ti dico questo: vedo, come al solito, in queste tragedie un po' di retorica sui giornali. Ecco, appunto, il Corriere oggi intervista Scamarcio e Emma Marrone. Cioè, ci manca veramente l'intervista a Guccini, perché ha scritto la locomotiva, e poi abbiamo come dire, chiuso il cerchio. Questo fa di un vizio recente dei nostri giornali, dei grandi giornali. Cioè, quando c'è un evento drammatico, importante, sì, come quello di Andria, scatta un meccanismo per cui si dedicano 10 pagine, esatto, 20 pagine, e poi dopo bisogna e poi fra tre giorni diciamo, saremo tornati alla normalità, e ci sarà un altro evento che meriterà 10 pagine, 20 pagine. Diciamo, sono i famosi approfondimenti, che forse sono un po' troppo approfonditi. Io su questo devo dirti, è una mia vecchia, non voglio dire battaglia, perché stiamo parlando di cose nostre tra giornalisti, però insomma, un minimo più di, insomma, di, come diceva quell'altro, di sobrietà, si racconta quello che si deve raccontare, non si omette nulla, ma il colore, il contorno, anche perché poi dal punto di vista, diciamo, del lettore, di chi fruisce, io non penso che ci sia qualcuno che si legge tutta quella roba, no, e questo va a discapito di altre notizie che magari non trovano spazio. Assolutamente. Vabbè, chiusa questa polemica, come dire, interna, la questione lì è seria. Cioè, è possibile affidare alla scelta umana i convogli in cui viaggiano 1000 persone, anche di più? Ma addirittura leggevo ieri qualche collega che raccontava che non è soltanto un contatto telefonico, ma addirittura si parlano attraverso fonogrammi. Sì, fonogrammi. Attraverso questa macchina che ha una quarantina di anni di età, dotata di pulsanti colorati come nei telefilm di Star Trek, e ci sarebbero questi fonogrammi che passano da una stazione all'altra, con il capostazione che poi deve appunto decidere se sollevare la famosa paletta e magari e magari fischiare come si faceva una volta col fischietto. Siamo veramente agli anni 50, questo. Sì. E questo è lì la vera battaglia da fare, non il binario unico, che il 50% della rete ferroviaria è su binario unico, la tecnologia, insomma. L'aggettivo usato dal Presidente della Repubblica, che mi sembra sia inaccettabile, no? Che da un certo punto di vista dice: ma perché deve essere inaccettabile una tragedia? Invece è inaccettabile che ci siano questi meccanismi completamente demandati alla... come uno si sente, sì, quel giorno, quella mattina, a un equivoco, una parola sbagliata. Questo è veramente pazzesco. Rienzi, qui che dire? Voi del Codacon sarete già attivi a dire che cosa, però? Siamo già attivi, ma l'inaccettabilità sta nel fatto che delle cose doverose adesso faranno addirittura un decreto legge, si fanno quando muoiono 23 persone, sì, e questa è la cosa che dà fastidio. Ma doverose cosa? La tecnologia, cioè investire in tecnologia. Adesso faranno un decreto legge per far andare avanti rapidamente i lavori di ammodernamento e di raddoppio dei binari, ma sono cose che si dovevano fare prima e ogni volta lo paghiamo con il sangue. Ci sono delle responsabilità che partono dal governo, che scendono alla regione, naturalmente, che sapete è la responsabile in base alla Costituzione del traffico locale, per finire poi a chi? Imprese commerciali che hanno scopo di profitto, chiaramente, ma si tratta di servizi pubblici. Allora, quando sono servizi pubblici, lo scopo di profitto dovrebbe essere molto, ma molto controllato. Non si capisce come mai. Però Rienzi, non facciamo la retorica del privato è brutto, il pubblico è buono, perché. No, ma il servizio pubblico è una cosa delicata. È come dare, che ne so, la polizia a un privato e poi non controllare quello che fa. Cioè, sta dicendo che c'è il rischio che abbiano voluto risparmiare sulla tecnologia. E come mai i soldi non li hanno spesi? Come mai? Che è successo? Dal 2008 c'erano i soldi per raddoppiare, per ammodernare, per mettere quella tecnologia che è indispensabile, perché appunto non ci sono i treni come nei film di Totò, dove quello mette il carbone con la pala, si affaccia il capotreno, si affaccia a guardare se arriva qualcuno con il fazzoletto in testa, no? E se vede via libera procede. Però più che il raddoppio della linea, che ripeto, il 50% delle ferrovie, ma anche in Europa, viaggiano su binario unico, non vuol dire in sicurezza il binario unico, ci vuole però una tecnologia che lo supporti, appunto, che lo supporti bene. Non si può guardare a vista se arriva il treno dall'altra parte. Ci devono essere i sistemi di frenata automatica, devono essere i sistemi che impediscono la partenza di un treno se viene elettronicamente segnalata la presenza di un altro treno su quella linea. Sì. Che sono cose elementari, oggi si può fare di tutto con la tecnologia. Com'è possibile che queste situazioni in cui sono centinaia di poveracci, di innocenti, che viaggiano per lavoro, per svago, per necessità, non ci sia questa cura minima, trattandosi proprio appunto di un servizio pubblico? Sì, sentite per esempio Del Rio, no? Del Rio, il ministro ieri alla Camera ha parlato, sentite come quella tratta ferroviaria funziona così. Il sistema di segnalamento con consenso telefonico, pur essendo sicuro, è certamente un sistema tra i meno evoluti rispetto alle tecnologie disponibili per la regolazione della circolazione ferroviaria. Beh, non so se nel parlare si è capito, Brindani, il consenso telefonico. Il consenso telefonico, no, ma io guarda, sono d'accordissimo sul fatto che qui non è una questione dei famosi 180 milioni del raddoppio, non raddoppio, perché... Ma che si devono telefonare, è arrivato il treno! Se non ricordo male, sono circa 9.000 i chilometri della rete ferroviaria italiana a binario unico, e di questi 9.000 il 95% sono in sicurezza. Allora il problema è, sentivo ieri proprio su Radio 24 il collega Mariano Maugeri che diceva una cosa molto giusta: ma perché non si fa immediatamente o non è stata fatta una legge di un articolo, che quindi una legge dello Stato? E da questo punto di vista Rienzi ha ragione, ci sono delle responsabilità di Roma, no? Una legge dello Stato che dica semplicemente, che imponga anche ai privati che gestiscono delle tratte o dei treni di mettere dei sistemi di sicurezza che esistono e non costano 180 milioni. Infatti, guardalo qua, pagina 3 del Messaggero: è bloccato in conferenza Stato-Regioni per lungaggini burocratiche, veti incrociati, il decreto che unifica tutti i sistemi di sicurezza, prevedendo lo stop dei controlli solo telefonici. Perché poi le cose ci sono, poi quando i giornali giustamente poi vanno a scavare, lo scrive Umberto Mancini sul Messaggero, quindi c'è un decreto che dovrebbe unificare tutti i sistemi di sicurezza, ovviamente elevando gli standard verso l'alto, eliminando quelli con i controlli telefonici e basta, perché non abbastanza sicuri, è tutto bloccato. È tutto bloccato, siamo lì a occuparci dell'Italicum e, esatto, e della riforma costituzionale. Esatto. Ah, fondamentale, sì. L'Italicum, l'Italicum. Tu spacchetteresti, non spacchetteresti? O macchiato caldo, o a freddo? No, lasciami dire, lo spacchettamento, adesso con tutto il rispetto per diventare dei radicali, mi sembra veramente una cosa lunare. Il famoso, il famoso spacchettamento a destra prematurato alla supercazzo. Vorrei sentire il grande De Luca sullo spacchettamento, non si è mai espresso su questo tema. No, perché lì va a temi suoi, non è che ci sono domande, c'è un microfono e va a temi suoi, non è che va. Comunque sì, lo spacchettamento. Questa me la devo rivendere. Come lo vuoi? Spacchettamento, sì, no? Oppure macchiato caldo, freddo, lungo, corretto? O cappuccio e brioche? Marocchino. I treni si scontrano. Esatto, no, infatti il dramma è questo. C'è niente da dire. Questa gente bisogna che abbia giustizia, che figurati poi che i risarcimenti, le assicurazioni saranno peggio di quelle spagnole, quando non vorranno pagare. Guarda anche qua, Rienzi, sempre il Messaggero. Ora si temono risarcimenti beffa, c'è il timore del bis, noi dei mini rimborsi. A disposizione, come cosa, come abbiamo già detto gratuitamente, chi vuole, ha bisogno di aiuto, venga da noi. Però fate una bella battaglia questo decreto bloccato per i veti. Certo che poi quando si dice bloccato per i veti, incrociati, vai in stato regione, vai a capire chi è la colpa, basta. E quando ci sono i veti incrociati, colpa di tutti, colpa di nessuno. Andiamo al traffico, va, rientriamo tra un attimo. Fibio Milan, manda al traffico in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Tutti i soldi sprecati in bodyguard, in macchine blu, in aerei privati, e invece non c'è nemmeno la ferrovia. Sprecate due parole su quel minchione che andava a timbrare a Napoli il cartellino suo dei colleghi con il cartone in testa. Sono un seminarista, Milan, è tutto vero, solo che non è che ho tirato il topo, ho tirato addosso il topo e lui di testa l'ha messa dentro. I topi di Roma sono molto grossi, io lo so perché sono stato a Roma 11 anni o 10 anni, non mi ricordo più. Mi ricordo che nel cortile del nostro seminario allora ogni tanto attraversava il campo di calcio qualche topo enorme, talmente grosso che una volta un seminarista ha fatto gol con un topo. Cioè... Questa era la verità di Don Livio Fanzaga, direttore, questa non l'avevi mai sentita, eh? I no. Toponi con il seminarista che ha fatto gol con un topo. Ci ha chiamato un sedicente seminarista dicendo, spiegandoci la dinamica, tirato, colpo di testa del topone e palla all'incrocio e andiamo, l'oratorio San Carlo, 1-0. Vabbè, questa è la verità di Don Livio Fanzaga, chissà se è vero. Però ci sono i topi, Rienzi, qui c'è poco da scherzare. Anche Rienzi una volta mi ha detto che farete le Olimpiadi, salto con gli stuzzicadenti, salto in lungo, salto triplo. Oltre che ovviamente il salto della buca, no? Perché c'è anche quello come sport, certo, per le Olimpiadi, soprattutto la corsa dei topi, il salto con lo stuzzicadente. Ecco, e non abbiamo apprezzato quello che ha la sindaca. Sì. È andata a Tor Bella Monaca il primo giorno. Perché come populisticamente per andare a rendersi conto se c'erano i topi e che topi c'erano, perché abbiamo detto ma basta che scendi sotto casa i topi li trovi. Invece, ma che dovrebbe fare? È un problema serio questo dei topi. Ha fatto bene il giorno dopo ad andare all'AMA a verificare che la catena di eliminazione dei rifiuti è guasta, è rotta, non funziona, fa schifo, eccetera, eccetera. Ma uno che può fare, cioè se ci sono gli spazzini, se ci sono i e non puliscono per motivi che insondabili. Esatto. Allora io non vado a Tor Bellamonica, vado all'AMA e chiedo il registro delle presenze degli spazzini in quella strada, li chiamo immediatamente, gli dico: avete visto che sotto i cassonetti c'era il terriccio? Capito, ma lo chiama, sì, il sindaco, lo deve fare, cioè, lo dovrà fare il terriccio, perché non l'avete tolto? Ma lo dovrà fare il presidente dell'AMA, dal servizio, licenziati. Questo deve fare la Raggi. E poi chi raccoglie i rifiuti se licenziamo? Ma basta licenziarne uno, il giorno dopo ci saranno quelli che 100. Vedranno il terriccio e lo toglieranno, perché questo non c'è controllo nel nostro paese, a Roma in particolare mancano i controlli. Speriamo che faccia bene il sindaco, noi siamo lì ad aspettare, tranquilli. Brindani, cioè, tranquilli non tanto, licenziarne uno per colpirne 100, questo si potrebbe... Ma bisogna dare dei messaggi, dei segnali, cioè non è possibile che li vediamo in 4-5 negli angoli a chiacchierare, a fumare o al mercato trionfale. Non so, che dici direttore? Il problema adesso si comincia a capire perché i grillini sotto sotto non volevano vincere a Roma, esatto. Perché questa è la prima di innumerevoli sfide impossibili che la Raggi dovrà affrontare, perché il poveraccio, mettendosi nei suoi panni, rimettere a posto l'AMA, rimettere a posto la raccolta dei rifiuti a Roma e sperabilmente risolvere il problema dei topi è una delle missioni possibili di fronte alle quali, no, però, il Movimento Renzi, 5 Stelle si trova. Renzi, cioè, dice, no, la soluzione è questa: prendi il registro degli spazzini, gli dici tu dove eri, non c'è, perché stai fumando qua, e via, e licenziarli anche, colpirli. Cominciamo a dire che è impossibile fare qualsiasi cosa e non risolviamo il problema di Roma, quello che io dicevo quando ero candidato al sindaco. Bisogna dire che bisogna fare subito delle cose, anche piccole, ma che servono e sono significative. Sì, però non è facile. Allora, io Renzi, io capisco una cosa. Eh? Sì, ma ci sono, allora, qualsiasi sindaco di destra, di sinistra, di centro vorrebbe una città pulita. Chi non vorrebbe una città pulita? Evidentemente è un carrozzone, l'AMA, come anche l'ATA, che c'è, talmente nel quale è difficile agire, perché sennò se qualcuno ci avesse avuto la soluzione l'avrebbe già utilizzata, no, finora. No, perché i sindacati si oppongono. Appunto, allora, come fai? Che fai? Coraggio. Allora manda 3 ispettori in 3 pasti di Roma a vedere chi lavora e chi non lavora e comincia a dare dei segnali. Ma l'avranno anche fatto, poi c'è il giudice che te li reintegra. Ma tu li licenzi, il giudice te li reintegra, cosa fai? Non importa, intanto finché non li reintegra vedrai come puliscono la città. Ah. È questo che bisogna capire, come pure altre tante. Noi abbiamo fatto 3 diffide alla sindaca e abbiamo spiegato cosa deve fare. Brindani, cioè, mi piace Renzi, cittadini, votatelo! No, è già finita. Comunque, 2.710 persone. No, infatti, no, io scusate, ero un attimo, vabbè, Brindani, niente, mi piaceva, no. Però purtroppo non ce la fa. Però non è facile, cioè io capisco. Però l'aiutiamo, adesso le stiamo dicendo come fare. Ci sono per esempio le 7.000, non so quante sale slot machine a Roma, c'è una strada, la via Tiburtina, dove ce n'è una ogni 100 metri. Sì. Allora le abbiamo detto come deve fare la direttiva, come hanno fatto altri sindaci, per dire non dovete aprire sale slot se non a distanza di... dalle scuole, dalle asili, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Cioè non ci vuole proprio niente, glielo diciamo a noi come fare, Brindani, sembra facile, ma sembra facile sempre da fuori. Bisogna avere coraggio. No, ma sicuro, io penso che però la Raggi ce l'avrà il coraggio, è che si scontra con una realtà. E ne licenzi uno, questo ti fa ricorso, che fine hanno fatto tutti i furbetti del cartellino o del cartoncino che in questi anni sono stati sorpresi. Sì, come quello col cartone, ne abbiamo parlato, ma ne ho parlato a lungo. Ieri io ho detto ci vorrebbe la gogna pubblica, uno che esce lì, gli toglie il cartone, guardatelo tutti in faccia, questo qui, tutti in faccia per 10 minuti, una bella gogna. Anch'io sto impazzendo come Renzi adesso. Ma si può fare, non ci vuole. Anche se ci sono poi i ricorsi, le sentenze, intanto